Ricorda di non sentire questa canzone, di non lasciare il basilico troppo al sole, di non cercarmi negli occhi di altre persone. Ricordati di me quando il cielo si crepa, ritorni la sera, la chiave nella toppa si piega. Ti metti quel vestito nuovo che ti piaceva, ma poi non viene sulla cerniera. Ricordati di me quando è giorno di festa e vuoi andare al mare, ma senti che la febbre ti sale. Ricordami se trovi le cuffiette annodate e tutto quanto ti gira male. Ricorda di non sentire questa canzone, di non lasciare il basilico troppo al sole, di non cercarmi negli occhi di altre persone e non dimenticarmi neanche per errore. Tra pianeti e bolle di sapone. Ricordati di me se non suona la sveglia, fai tutto di fretta, rovesci il caffè e latte per terra. E c'è una multa che ti aspetta sul parabrezza e un traffico da uscire di testa. Ricordati di me quando è stata inoltrata, non fa un filo d'aria e litighi con una zanzara. Ricordami se piove e trovi casa allagata, ricordami se perdi la strada. E se in fondo non va tutto come vuoi, cascasse il mondo, ricordati di noi. Ricorda di non sentire questa canzone, di non lasciare il basilico troppo al sole, di non cercarmi negli occhi di altre persone e non dimenticarmi neanche per errore. Tra pianeti e bolle di sapone. Tra pianeti e bolle di sapone.